al tuo mestiere. Ti prego non giudicare, non serve la tua morale. Non mi guardare come se fossi matto, te l'ho detto negli occhi, la tua pena non serve. Ora non voglio pensare e tu mi devi aiutare, sono laureato.